Fabrizio Intonti. Molto famosa, che dice: più conosco gli uomini e più amo gli animali. Mi è venuta in mente mentre stavo venendo qui per la puntata di oggi, perché leggo e ascolto che molti di voi vorrebbero cambiare vita perché non vanno d'accordo con le persone che incontrano e che conoscono, non si trovano bene con i colleghi, non riescono ad andare d'accordo con il capo, si stressano per tutta la gente che ogni giorno devono incontrare, conoscere, con cui si devono relazionare per motivi di lavoro. Allora pensavo che ad esempio una soluzione per alcuni potrebbe essere incontrare meno persone e più animali, eh? Che ne dite? Potrebbe essere un'idea? Ad esempio così, invece che passare 8 ore con il vostro collega antipatico, potreste passare 8 ore con un affettuoso San Bernardo, oppure invece di fare la pausa pranzo col tramezzino al bar, potreste farla nei boschi con il formaggio in mezzo alle pecore come Peter e Heidi, oppure che ne so, invece di dover compilare un Excel o un PowerPoint, potreste sussurrare ai cavalli, oppure dar da mangiare ai pinguini. Potrebbe essere un'idea? Non lo so, pensateci un po'. Questo è il giro di vita che vi proponiamo oggi: meno persone, meno civiltà, meno gente, più natura e più animali. Se l'avete fatto, se ci state pensando, se questo è il vostro piano B, 800 24 00 24. Stai giù, Sansì! Mettiti giù, Sansì! È sordo. Non sono sordo, è solo che non la sopporto. Non mi castrare, ok? Ti prego, non mi castrare. Non guarderò mai più una femmina, te lo giuro. John Tolit, chi l'avrebbe mai detto che saresti finito in manicomio? Allora, John, adesso parli con gli animali, eh? Ti va di raccontarmelo? Oppure preferisci dirlo al mio amico qui, Burrito? Non ho bisogno di parlare col tuo gatto, Blaine. Perché? Pensi che ti risponderebbe? Secondo me potrebbe farlo. E che cosa direbbe? Direi che sei una testa di cazzo. Chissà cosa direbbero i nostri... io non ce l'ho un animale apposta, per evitare queste cose qui non posseggo un animale domestico. Insomma, chissà cosa direbbero i nostri animali di noi, di voi, di tutti quanti. Il dottor Dolittle, questo personaggio interpretato più volte da Eddie Murphy, ce l'avrebbe saputo dire perché lui parlava con gli animali, ascoltava gli animali. Questo è un dono che ti può portare in manicomio, ma magari potrebbe anche aprirti una nuova carriera, chi lo sa. Benvenuti, 16... agosto, lunedì, insomma, siete tornati, siete ancora in giro, come va? Insomma, state ancora pensando a cambiare vita, dei giri di vita? Noi tutti i giorni ci occupiamo di questo, parliamo di persone che hanno cambiato vita, che hanno mollato tutto o in parte per inventarsi un nuovo inizio, per inventarsi una vita nuova. Io sono Achille Corea, questa è Radio 24 e il giro di vita di cui vi parliamo oggi è quello relativo a un cambiamento legato all'amore per la natura e per gli animali. Se avete qualche storia da raccontarci o volete commentare, fatelo su Facebook, la nostra pagina che si chiama Giro di Vita, oppure fatelo all'800 24 00 24. Intanto noi sentiamo la storia di Carlotta Severi, benvenuta. Ciao, buongiorno. Eccoci Carlotta. Carlotta, tu che lavoro fai attualmente? Addestratrice di delfini, io parlo con i delfini. Beh, e loro ti rispondono. Certo. Carlotta, però tu non hai iniziato facendo questo. Tu fino a qualche anno fa facevi un lavoro completamente diverso e, se posso dirlo, anche molto ambito. Sicuramente quando lo diremo molte persone all'ascolto potranno dire: ah, però... Tu hai vissuto un anno a Londra per fare cosa? Ho vissuto 2 anni a Londra, due anni a Londra, e lavoravo per una famosa emittente televisiva a livello europeo. Ma diciamola. Ma si può dire? Sì. Beh, ho lavorato per MTV, ma si parla di parecchi anni fa e era un lavoro, tra virgolette, saltuario, nel senso che lavoravo 3-4 ore a settimana, facevo i voice over, però chiaramente questo lavoro mi dava l'opportunità di vedere concerti, conoscere persone famose, insomma lavorare nel mondo della televisione, dello spettacolo. Mi è capitato di avere richieste per lavorare come modelle, cose eccetera eccetera. Sì, un lavoro bellissimo. Però la mia passione era un'altra. Ma tu come c'eri finita a Londra a lavorare per MTV? Avevo degli amici che si erano trasferiti là perché loro lavoravano per MTV e lì per lì avevo seguito il cuore. Avevo seguito il cuore, ero andata con questi miei amici e mi hanno, insomma, occasionalmente, insomma, mi sono ritrovata a lavorare anch'io per MTV, diciamo, mi è capitato. Ecco, beh, di solito quando capitano queste cose poi uno, come dire, se le tiene perché incontra, esatto, dei personaggi famosi, sta in un ambiente, poi Londra è una città, insomma, bellissima e piena di opportunità, ma cosa c'era che non andava? Non c'era il mare. Non c'era il mare, beh, non c'era il mare, Londra, no, non c'era il mare. È bellissima, per carità, un'esperienza positivissima, bellissima, però mi mancava il mare. Un giorno, entrando proprio nella porta tonda, ho visto per terra un ciondolo che era, è presente quei ciondoli che vanno molto di moda adesso, all'epoca non ce n'erano tanti, che sono fatto a coda di delfino. L'ho raccolto e ho detto, vabbè, io qua non posso più stare. Questo è un segnale. Se diciamo la verità, sono quei momenti in cui prendi qualsiasi segno, perché tipo, esatto, se tu avessi incontrato un ciondolo a forma di automobile, non saresti andata a lavorare in un'officina. No, vabbè, la passione per i delfini e per il mare ce l'avevo, ci sono nata. Scusa, allora, dimmi una cosa, cosa fa una persona che sta a Londra, che lavora nell'ambito televisivo, che insomma, poi che poteva avere un inizio di carriera promettente, che a un certo punto dice no, però io voglio lavorare al mare con gli animali. Come ti sei comportata? Ah, mi sono comportata che ho fatto le mie valigie e sono tornata a vivere a Rimini, dove comunque io già vivevo prima, e ho fatto la richiesta di lavoro al delfinario. All'inizio i delfini non erano abituati come adesso a avere delle persone in acqua per fare lo spettacolo, per cui eravamo più ragazze e una alla volta ci hanno messo in acqua, però i delfini hanno ascoltato solo me, mi hanno dato retta nei segnali che gli addestratori mi avevano detto di fare, e i delfini, il capobranco, questo Speedy, ma l'aveva fatto solo con me l'esercizio, dunque sono stata automaticamente assunta. È tipo una prova, tipo, che ne so, Portobello, chi riesce a far fare l'esercizio. No, adesso è diverso. All'epoca erano meno abituati, adesso dappertutto, in tutti i delfinari, vedrete la parte dello spettacolo dove c'è una ragazza o un ragazzo che entra in acqua, ormai i delfini è una routine questa. Quando ho iniziato io erano meno abituati, per cui erano un po' più schivi rispetto a quello che sono adesso. Ma adesso si impara questo lavoro? Cioè c'è qualcuno che lo insegna? Come funziona? Guarda, negli Stati Uniti ci sono delle scuole, e comunque io l'ho imparato solo facendolo, e ancora avrò da imparare, perché comunque ogni giorno si impara. Senti, ti manca qualcosa della vita di Londra, del favoloso mondo dello spettacolo? Niente, non mi manca nulla. Cioè, non ci sono più tornata a Londra. Meglio un delfino di un VJ? Certo, sicuramente. Infatti sono zitella. Senti, è come, cioè, che tipo di lavoro dici? Perché sennò sembra un lavoro, poi io non vorrei che sembrasse il classico lavoro, perché poi tu sei anche sorridente, il lavoro bellissimo, meraviglioso, senza nemmeno un difetto. Dici, quanto è faticoso, che orari fai, cose così. Allora, no, chiaramente ci sono degli aspetti più duri del lavoro. E ad esempio in estate, quando ci sono molti spettacoli, c'è molta gente, si lavora dalla mattina alla sera, eccetera eccetera, vabbè. Poi chiaramente se un animale sta male, se un animale sta per partorire, si ha un cucciolo appena nato, e capita di dover lavorare anche 24 ore su 24 per giorni, e scordiamoci il Ferragosto, scordiamoci la domenica, il Natale, la Pasqua, e si è sempre a lavorare. È chiaro, ci sono dei giorni liberi, abbiamo le ferie, però sempre se non c'è nessun problema con gli animali, se c'è un minimo problema di salute di un animale, e queste cose saltano. A parte, io non riuscirei neanche ad andare in vacanza se ho un animale che non sta bene, non ce la faccio. E comunque è un lavoro duro. Se tutto va bene, è il lavoro più bello del mondo. D'inverno non ci sono spettacoli, se gli animali stanno bene non c'è nessun problema, è tutto bellissimo. Però quando appunto c'è un animale che magari ha qualche problema di salute, e si sta qua 24 ore su 24 a controllarli per dargli le terapie, e eccetera eccetera. Sì, è duro. Senti, a volte è molto duro. Per quanto io, si può ad fare? Esempio, si può fare per sempre? C'è un lavoro che però tu dici? Sì. Io ho parecchi anni che lo faccio e è chiaro, magari sì, secondo me si può fare per sempre. E non c'è qualche altra, diciamo, perché io noi di solito ho notato che quando uno fa un cambiamento nella vita poi è facile che ne faccia anche un altro. Non c'è qualcos'altro che ti tenta magari nello stesso settore con altri animali? No, guarda, io prima, fin da piccola comunque andavo a cavallo e domavo anche cavalli per altre persone, però no, al momento, ormai sono anni che ho deciso che questo, mi è stato anche offerto di fare sempre lo stesso lavoro, magari in altre città, in altre nazioni, all'estero, però non ho mai accettato, perché alla fine io sono affezionata ai miei delfini, cioè non riuscirei mai ad andare via da qua e lasciare loro, no. Sì, quanti delfini hai, così per curiosità? E adesso ne abbiamo 4. Qui e 2 in un'altra struttura. Quindi insomma ci sono. Noi. Sono i tuoi bambini. Sono i miei bambini, bravo. Va bene, senti, lasciaci con la nostra ultima domanda rituale. La valigia e la zavorra. Allora, nel tuo cambio vita, che cosa ti sei portata dietro? Cosa ti sei messa in valigia? Della vita vecchia? Sì, sì. Nulla. Nulla. Stai azzerando, stai distruggendo il sogno di giovani che vorrebbero lavorare nelle TV, che vorrebbero essere a contatto con le rockstar. Niente, vabbè, ti sto quasi per chiedere se almeno un aneddoto, un ricordo, una cosa, vabbè, ma non voglio... No, guarda, mi è capitato di conoscere dei grandi, della musica, sì, c'ho questi ricordi qui di questi personaggi, mi è capitato di conoscere il chitarrista dei Queen. Ma non vale un delfino, diciamolo. No, per me no, io sono fatta così, cioè non... E dimmi cosa... Diciamo che ho lasciato nella valigia vecchia, ho lasciato le cose e le ho sostituite, diciamo. Ok, cosa è una cosa che invece sei contenta di aver abbandonato adesso che la tua vita è in piscina, in acqua? Che sono contenta di aver abbandonato? Sì, sì. E... diciamo che la mia vita precedente, tra virgolette, non è stata solo MTV, ecco, per cui alcuni ricordi della mia vita ce li ho ancora, però non, ho sostituito delle cose. Diciamo che dalla valigia vecchia ho lasciato i tacchi e in quella nuova ci ho messo le pinne. Ecco, questa è una buona metafora. Vedi che le cose vere poi sono sempre metafore migliori, come i ciondoli che si trovano per terra. Bravo. Grazie Carlotta, tu adesso vai a fare lo spettacolo? Esatto, non so neanche se sono in ritardo. Vai, sono le 16:17. Grazie Carlotta, grazie di averci raccontato la tua storia. Controindicazioni. Questa scelta di vita è sconsigliata se siete grandi esperti di pesci da ordinare al ristorante. Pensate che il cane sia il miglior amico dell'uomo, che gli dà da mangiare. Siete così bravi ad addestrare gli animali che il vostro gatto ha imparato ad andare a comprarsi il cibo da solo. Amate i cavalli, ma solo se vi fanno vincere la tris. Il vostro pappagallo ha imparato a dire solo la parola aiutatemi. 800 24 0024, questo è il numero di telefono per mettervi in contatto con noi e raccontarci la vostra storia, la vostra vita legata agli animali, in particolare il cambiamento che siete riusciti a fare o anche che state solo pensando, preparando, immaginando per avere una vita migliore secondo voi, con grazie alla vostra passione per gli animali e la natura. Chiamateci e raccontatelo a Giro di Vita. E se lo facessi io? Però siccome non tutti noi possiamo addestrare, interagire con i delfini, proviamo ad allargare un po' il campo e capire che tipi di lavoro si possono fare, che tipi di percorsi bisognerebbe fare. Ne parliamo con Raffaella, che è una biologa invece al Delfinario di Rimini. Benvenuta. Grazie, buonasera. Raffaella, tu invece non hai vite precedenti, insomma hai sempre fatto questo, hai sempre studiato per questo? Sì, io direi che il mio percorso un po' di studi mi ha portato naturalmente ad avvicinarmi al mondo del mare e dei delfini in particolare, quindi fin dall'università avevo scelto scienze biologiche che mi ha aiutato in questa strada, Ecco, questi sono... Sì, dimmi, scusa. Però dicevo, rispetto a Carlotta è un ruolo un po' complementare, perché lavorando come addestratrice e strettamente a contatto con gli animali, io rimango un po' più dietro le quinte lavorando con gli studenti, per la didattica. Ecco, un dubbio che ho, perché ho anche visto in passato, conosciuto, ho avuto parentele con ad esempio veterinari che però poi passavano la maggior parte del tempo tra delle scartoffie e burocrazie, e ho sempre l'impressione che non tutte le volte questi studi e questi lavori che hanno a che fare con la natura, con il mare, portino a occuparsi poi quotidianamente di animali. È insomma un caso che effettivamente c'è, si finisce spesso ad occuparsi solo della teoria relativa alla natura? No, solo della teoria assolutamente no, perché poi se no perdi veramente il contatto con gli animali che magari poi hai vicino tutti i giorni e sarebbe un assurdo. Io ogni mattina mi reco al delfinario, quindi ci sono gli animali lì presenti e sarebbe una cosa fuori dalla realtà non avere contatto con loro, ma avere contatto non intendo semplicemente accarezzarli o stargli proprio vicino, ma proprio osservarli o comunque dare loro attenzione, insomma. Poi è vero che c'è la parte in cui uno si ritira nel proprio ufficio e cerca di tirare le somme su quello che ha osservato per cercare di essere di supporto a tutto il resto dello staff che si occupa di questi animali, quindi e gli addestratori, e i veterinari, le stesse persone della direzione che poi gestiscono tutta la struttura, quindi per cercare di creare un gruppo di persone, ciascuno con la propria competenza che lavora poi con l'unico fine che è il bene, il benessere degli animali. Ecco, lui ha citato lo staff, visto che magari c'è la gente che vuole cambiare vita, non sempre ha degli studi, che poi portano a occuparsi effettivamente di animali, e magari ha solo tanta passione. Quali sono i vari ruoli che in una struttura come la vostra si potrebbero ricoprire per vivere a contatto con i delfini, in questo caso in generale con gli animali? Sì, come dicevi tu, il comune denominatore deve essere quello della passione, dell'interesse grande per i delfini o per altri animali. Beh, una parte, se vuoi, ce l'ha anche la fortuna di trovarsi nei posti giusti al momento giusto, che sembra una banalità, invece delle volte ti porta a riuscire ad ottenere delle posizioni appunto che sono quelle a cui tu ambivi da sempre. E per contro ci deve essere quel percorso o di studi o di esperienza nell'affiancare altre persone che già svolgevano queste attività che ti possono aiutare appunto per rivestire questi diversi ruoli di cui tu adesso mi chiedevi. Quindi per esempio all'interno del nostro delfinario, oltre allo staff degli addestratori, che tutti i giorni sono a contatto poi con gli animali, come spiegava Carlotta, non ci sono feste, non ci sono orari, soprattutto quando c'è qualche emergenza o qualche caso particolare, che non sono sempre tutti negativi, a volte ci sono le nascite, le gravidanze, eccetera. C'è il gruppo degli studenti e dei biologi, che poi coordino io, che sono sia studenti dell'università che devono svolgere le tesi di laurea, sia a volte scolaresche più piccole, di bambini intendo più piccoli, cui magari fai delle lezioni, con cui fai esercitazioni, eccetera. Ecco, poi, senti, se c'è un amministrativo, sì. Veterinari, poi il gruppo si amplia. Poi magari appunto dipende anche quanto tempo passa. Un'ultima cosa, sì. Se c'è un modo per capire se uno si troverà d'accordo, se andrà d'accordo con i delfini, un modo per riconoscere uno che è portato o meno? Ma io penso sia una cosa istintiva, poi anche il delfino come altri animali è particolarmente socievole e se uno ha un'attitudine particolare come Carlotta ce l'aveva già per i cavalli per esempio o per i cani, quindi l'addestramento anche di altri animali, poi una cosa che trasla anche sui delfini. È vero che il delfino è un animale che stimola sempre molto la fantasia, l'emotività, quindi e magari ci si sente o più attratti da questo tipo di mammifero che da altri, però di fondo la passione per gli animali, l'attitudine per essi deve esserci, diciamo, più o meno in maniera sì. Se non vi piace il cane del vicino, forse difficilmente riuscirete a interagire col delfino. Va bene, esatto. Grazie Raffaella e buon lavoro anche a te. Noi andiamo avanti. 800 24 00 24. Hai visto? Non ti fa niente. Mi sono bagnato tutto. E no, apri la bocca. Apri la bocca, ma non ti fa nulla. Dagli il pesciolino e poi lo tocco. Ecco. Vai. No, no. Ma come si fa a toccare un delfino così? Michela, che palle. Lo sto toccando, basta. They call him Flipper, Flipper, faster than lightning. E questi erano Valerio Mastandrea e la Caprioli, che si la Caprioli, scusate, che si diciamo interpretavano in un film che si chiamava Non pensarci, un po' i due atteggiamenti che si possono avere con un delfino, cioè proprio quello che lo toccava lì così con la manina e invece l'addestratrice innamorata. Beh, ma non parliamo solo di delfini, gli animali sono tanti e in tanti cercano di trasformare una passione in un diciamo in un lavoro. Cesare ad esempio ha telefonato all'800240024. Pronto? Carissimo, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te. Tu di che animali ti occupi? Allora, io mi occupo di dalmata. Ho avuto la fortuna di conoscere questa razza stupenda. Sono quelli della carica dei 101, no? Bravissimo, sono proprio i famosi cani di quel cartone animato che li ha resi ancora più famosi. E tu lo fai, hai cambiato vita? Prima facevi un altro lavoro? Allora, io a tutt'oggi faccio due lavori, diciamo. Faccio l'imprenditore da quando ho conosciuto, diciamo, questa razza magnifica. Divido le mie giornate dedicando 5 ore di tempo alla mia attività principale, quella del commercio, e 5 ore comunque ai miei cani, perché essendo degli animali fantastici hanno necessità comunque di una presenza costante, e quindi sono riuscito a combinare un pochino tutte e due le cose. Quindi fai 10 ore, insomma, hai fatto una... Praticamente sì, però le faccio veramente di cuore, perché danno tante di quelle soddisfazioni ed è piacevolissimo passare comunque tanto tempo con loro. Ma il tuo lavoro, cioè il tuo primo lavoro non c'entra niente con gli animali? Completamente diverso, io mi occupo di un centro commerciale, quindi con tutti gli impegni e le responsabilità di questo tipo di attività, però ripeto, ho preferito proprio staccare, dividere e prendermi il mio spazio seguendo questa passione che seguo da 2 anni in maniera un po' più professionale. Cioè, stare, come si comincia? Un cane, 2 cani, 3 cani, 4 cani, oppure c'è un momento in cui si passa da una fase di ho un allora, cane? Io ho cominciato ricevendo in regalo un dalmata 5 anni fa, come ti dicevo. Poi ho fatto un po' di ragionamenti seri dicendo: guarda, non voglio fare un discorso diciamo di allevamento dove sono tanti cani, dove non puoi dedicare tanto tempo a ogni singolo soggetto, perché lo sappiamo bene, vivrebbero in gabbia, quindi in recinti. Quindi ho preferito fare un discorso molto amatoriale, quindi scegliendo soltanto di avere 4 cani, nel quale comunque nell'arco della giornata puoi dedicargli tantissimo tempo, quindi uscirci, fare le cose comunque di tutti i giorni. Quindi è nata così, è nato proprio come un amore a prima vista quando li ho visti, e poi ho detto: vabbè, perché no, facciamolo anche a livello professionale, quindi mi sono dedicato totalmente a questa razza. E quindi tu poi che fai? Hai 4 cani per volta, poi li vendi? Cioè non ho che... Guarda, io ho dei cani che porto nelle mostre cinofile, ho creato anche un gruppo su Facebook dove seguo anche i cani che sono abbandonati, faccio massimo 1 o 2 cucciolate, perché poi i cani non voglio sfruttarli, quindi ripeto, è nato proprio come un amore per i cani, e quindi il mio è un allevamento amatoriale, non commerciale. Quanto spazio hai ad esempio? Guarda, i cani hanno oltre 500 metri dove giocare tutto il giorno, quindi è un recinto gigantesco. E poi la sera hanno dei grandissimi box, dove hanno in ogni box anche un recinto di oltre 80 metri quadri, quindi ho avuto la fortuna. Ho comprato casa, ti dico solo questo, per far stare bene i miei cani, proprio l'anno scorso, e quindi c'è questo grandissimo spazio di terreno dove li stanno tutto il giorno. Vabbè, insomma, diciamo che sono cani fortunati, perché penso che ci siano delle persone all'ascolto che si stanno facendo due conti sui metri quadri. Dipende anche dalla zona d'Italia. Tu sei di Cosenza? Io sono, sì, vicinissimo a Cosenza, sono a Castrolibero, e quindi ho avuto la fortuna, ripeto, di acquistare questo villino con questo grandissimo terreno, scelta apposta per tenerli, per farli crescere in maniera sana soprattutto. Va bene Cesare, noi ti auguriamo, facciamo un in bocca al lupo, e magari un giorno, se vorrai, potrai diventare un allevatore, basta, se questo è il tuo desiderio te lo auguriamo. Andiamo a chiudere, io vi ricordo che potete scriverci e potete proporci le vostre storie, i vostri cambiamenti di vita a girodivita@radio24.it, oppure tramite Facebook, la nostra pagina si chiama Giro di Vita, potete trovarci lì, oppure sulla segreteria telefonica che sentirete nella sigla. Io insomma spero che vi abbia stimolato la puntata di oggi a frequentare un po' di più gli animali, perché da me si dice sempre che il cane somiglia al padrone, ma a volte sarebbe anche bene che il padrone somigliasse un po' al cane. A domani. Se avete una seconda vita o la state inseguendo, raccontatela alla nostra segreteria 828 1111.